Io vago. Su strade. Buie. Vuote. Guardo. E mi perdo. Fissandole. A volte mi chiedo. Se esista qualcuno. O qualcosa. Che mi attenda. In fondo. Poi mi consolo. Non ho mai lasciato un frammento del mio tempo in questi tetriangoli che nidi non sono, ma covi. Poi sorrido e germoglio. Poi sorrido e germoglio.